giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La regione ribadisce il no all'acciaieria Metinvest Danieli, troppo onerose le infrastrutture e aumento del traffico. Migranti a Pordenone, entro un mese una soluzione definitiva dopo l'hangar in Comina. La divisione crociere di MSC conferma Fincantieri l'ordine di 2 nuove navi a idrogeno. Mercato immobiliare, affitti in crescita e monolocali quasi introvabili a Trieste e Udine. Stroke dintorni a Udine, tasso di disabilità grave dimezzato contro l'ictus, serve prevenzione. Sempre a Udine il premio Midolini, da ex discarica a contenitore di cultura e rigenerazione urbana. 12:31, buongiorno da Daniele Lettige e Rita Micoli. In apertura di giornale c'è di nuovo il contestato progetto dell'acciaieria San Giorgio di Nogaro. La regione è tornata sul no, ha ribadito il suo no pronunciato alcuni giorni fa. Protestano i comitati ed alcune categorie economiche per la mancata convocazione alla seduta delle commissioni consiliari. La giunta regionale ribadisce il no all'ipotesi di acciaieria a San Giorgio di Nogaro, lo fa nell'attesa seduta congiunta delle commissioni seconda e quarta sul tema. Dopo la delibera di inizio settembre in cui la giunta affermava che predilige altre tipologie di investimento, l'assessore alle attività produttive Sergio Bini ha chiarito la posizione sul progetto Adria proposto dalla friulana Danieli e dall'ucraina Metinvest, un impianto siderurgico di nuova generazione che porterebbe con sé centinaia di posti di lavoro diretti, oltre 2 miliardi in investimento. Il no non è dovuto a motivi ambientali, ha spiegato Bini, anche alla luce di uno studio delle università di Udine e Trieste, secondo cui da quel punto di vista non esistono condizioni evidenti per limitare l'insediamento di ulteriori attività industriali nell'Aussa Corno. Le perplessità maggiori riguardano i costi di infrastrutturazione ferroviaria e stradale dell'area, la stima è di 250 milioni. Il previsto aumento del traffico di treni e camion rischia poi di essere troppo impattante sulla popolazione. I tempi dei lavori di adeguamento sarebbero inoltre incompatibili con i 36-48 mesi chiesti dai proponenti, ha aggiunto Bini, secondo cui il no dei sindaci che hanno partecipato all'audizione va ascoltato. Al dibattito hanno partecipato le associazioni economiche e ambientaliste, oltre Danieli non mancano le polemiche. Per Massimo Moretuzzo di Patto per l'Autonomia, la giunta dovrebbe dire no alla acciaieria innanzitutto per ragioni ambientali. La consigliera Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle ha lasciato l'aula per l'assenza dei comitati che saranno invitati in una prossima seduta di commissione, ha chiarito il presidente Marcus Maurmeier, comitati presenti con un presidio di protesta davanti al palazzo. Si lamentano della mancata convocazione anche Confcommercio e Confapi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Fa discutere ancora la questione migranti a Pordenone. Il comune ha allestito una soluzione temporanea all'interno di un ex hangar, ma si lavora a una soluzione definitiva entro un mese. Hanno trascorso la notte all'interno dell'hangar di via Pionieri del Volo, la struttura temporanea individuata dal comune di Pordenone per dare un tetto ai migranti che dormivano all'addiaccio per strada e nei parchi cittadini. Si lavano come possono, qualcuno riposa a terra, avvolto nelle coperte. La situazione non è buona, ci dicono, non sappiamo quanto rimarremo qui, non abbiamo le docce, l'elettricità, qualcuno è anche senza coperte e comincia a far freddo. Allo sportello della Croce Rossa di via Cappuccini intanto altri arrivano per chiedere cibo, abiti e medicine. Il presidente del comitato della Croce Rossa di Pordenone è Giovanni Antonaglia. Noi diamo beni di prima necessità da mangiare, abbiamo anche il supporto di uno psicologo e eventualmente se hanno necessità sanitarie facciamo intervenire i nostri medici. Di quante persone stiamo parlando all'incirca? Ma noi abbiamo raggiunto un tetto massimo di 55 persone, mediamente sono sulle 40 persone. Il clima intanto resta teso con alcune associazioni locali per i diritti dei migranti. Per il sindaco Ceriani la struttura in Comina è una risposta concreta, seppur temporanea. Rassicura anche sulla sicurezza legata alla vicina piazzola per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso. Nel frattempo si lavora a una soluzione definitiva per l'accoglienza dei migranti nello stabile che ospitava i comboniani. Per la predisposizione di un alloggio, secondo quelli che sono i criteri ministeriali in accordo con la prefettura, occorrerà almeno un mese per svolgere dei lavori. Quanti posti? Una sessantina di posti più un'area cosiddetta bassa soglia, cioè per coloro i quali arrivano in città ma si fermano solo poco tempo perché sono in transito. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stata confermata a Fincantieri la commessa per altre due navi per crociere di lusso con alimentazione ad idrogeno. Il committente è MSC. Ancora prematuro sapere in quale cantiere del gruppo Fincantieri saranno costruite le navi da crociera Explora 5 e 6, le prime alimentate a idrogeno. L'ordine è stato appena confermato al colosso navalmeccanico italiano da MSC per il suo brand di lusso Explora Journeys, ma non si esclude che potrà essere assegnato a Monfalcone, che ha già realizzato la prima delle sei Explora commissionate dalla società armatoriale elvetica Fincantieri, consegnata lo scorso luglio nella città dei cantieri navali. Un importante ordine che complessivamente vale 3,5 miliardi di euro e che conferma le previsioni del numero uno di Fincantieri per Roberto Folgero, che solo pochi giorni fa aveva annunciato convinto la ripresa del settore della cantieristica tra il quarto trimestre 2023 e il primo del 2024, dopo la ripartenza prepotente quest'anno della croceristica. Le due navi da crociera a idrogeno saranno consegnate nel 2027 e 2028 e confermano anche l'impegno di MSC a raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050 grazie alla ricerca di tecnologie ambientali, un obiettivo condiviso anche da Fincantieri, che punta a diventare leader mondiale nell'abilitazione della transizione energetica per le grandi navi e nella costruzione e gestione di unità sempre più automatizzate e digitalizzate. Il nostro futuro dipenderà da questa capacità, spiega Folgero, e in questo senso l'intesa con MSC è un grande stimolo strategico verso il futuro, aggiunge precisando che il progetto Explora con la quinta e sesta nave raggiungerà il massimo livello di avanzamento. In totale, ad oggi Fincantieri ha in portafoglio 25 navi da crociera, 4 delle quali in corso e di prossima costruzione a Monfalcone. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di mercato immobiliare e in particolare di quello degli affitti, che vede alcune tipologie di alloggio praticamente scomparse dal mercato. Prezzi all'insù, ma comunque ben sotto il tasso di inflazione, salgono gli affitti a Trieste e Udine, soprattutto nelle zone semicentrali. Nel capoluogo, nell'ultimo anno, un monolocale ha raggiunto i 530 euro. Proprio questa particolare tipologia adatta a single è diventata quasi impossibile da trovare. E per questo motivo sono saliti di poco di più di 20 euro al mese i canoni, più 4%, a fronte di un aumento medio nel resto del paese inferiore al 2%. Saliranno ancora, specie quando scadranno i contratti. Crescono anche gli affitti delle altre tipologie più cercate dalle famiglie, più 3,1% per un bilocale da 670 euro, più 2,6% per un trilocale da 800, ben sotto la media nazionale, superiore al 3,5%, come spiega il Sole 24 Ore, analizzando i dati di uno studio. Diversi i motivi di questi rincari, ce lo spiega il presidente regionale della FIAIP, Stefano Nursi. C'è pochissima offerta e una richiesta veramente molto elevata, quindi poche locazioni che hanno una velocità incredibile, addirittura le agenzie non chiamano neanche e non mettono neanche l'annuncio sui portali perché hanno già i clienti in fila che aspettano. Una certa fascia di clientela non riesce più a comprare e che andando in affitto è aumentata molto la domanda e l'offerta è rimasta scarsa, quindi i prezzi dal punto di vista locativo stanno un po' salendo. Nessun affare però per chi affitta. Al di là degli aumenti medi sotto di diversi punti inferiori al tasso di inflazione, esiste un problema di garanzie per il proprietario che, se può, preferisce affittare brevemente ai turisti. Il proprietario privilegia generalmente una locazione breve ad uso turistico perché ha una garanzia praticamente assoluta che l'immobile viene rilasciato. In Italia il rilascio dell'appartamento in caso di morosità non è per niente banale, per niente veloce, quindi c'è grandissima attenzione all'inquilino che si mette dentro in casa propria. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Sciopero questa mattina dei dipendenti della SEA, ditta che lavora in appalto per NET, l'azienda che cura il servizio dei rifiuti a Udine. Si sono astenuti dal lavoro, ha reso noto il sindacato Fiadel, che ha organizzato la protesta, il 95% dei lavoratori SEA. Lo sciopero era stato convocato per protestare contro il mancato inserimento nei bandi di gara da parte di NET di vincoli sul contratto da applicare, lasciando così la possibilità che vince gli appalti appalti, spiega una nota del sindacato, di applicare contratti peggiori dal punto di vista retributivo e normativo rispetto a quello nazionale del comparto igiene ambientale. Tra le 8 e le 11 alcuni lavoratori hanno anche manifestato in Viale Duodo a Udine davanti agli uffici della NET. Una delegazione è stata ricevuta dalla direzione aziendale, che ha dato rassicurazioni sulla corretta applicazione del contratto di settore anche per le ditte in appalto, come SEA. Se gli impegni non verranno rispettati, i dipendenti promettono nuove forme di protesta. Siamo alla cronaca. Un uomo di circa 60 anni d'età è stato soccorso questa mattina intorno alle 7 dal personale medico per le ferite riportate in un incidente stradale a Ronchi dei Legionari, in via Giovanni Battista. L'uomo stava pedalando sulla sua bicicletta e si è scontrato con una moto per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. La SORES ha inviato sul posto un'ambulanza da Monfalcone, l'automedica da Gradisca di Sonzo e l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato in codice giallo in volo all'ospedale di Cattinara. Ed è in corso a Udine un convegno sull'ictus cerebrale, sullo stato dell'arte del trattamento di una patologia che anche in Friuli Venezia Giulia colpisce moltissime persone. L'ictus cerebrale colpisce ogni anno circa 150.000 persone in Italia. È la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, la prima di invalidità, la seconda causa di demenza. La lesione cerebrovascolare è causata dall'interruzione del flusso di sangue al cervello, dovuta a ostruzione o rottura di un'arteria. A Udine, il congresso Stroke e dintorni fa il punto sugli attuali modelli organizzativi per la gestione e la cura del paziente, che si riflettono sui risultati conseguiti. Con un dato su tutti, dal 2015 il tasso di disabilità grave è sceso dal 100 al 50%. Massimo Sponza, Ospedale Santa Maria della Misericordia, Udine. Siamo in grado oggigiorno, con le tecniche che utilizziamo in ambito di radiologia interventistica, siamo in grado di andare a disostruire in tempi molto rapidi queste arterie in maniera tale da ripristinare il flusso e quindi ridurre il danno cerebrale, con di conseguenza un ripristino, in una buona percentuale di casi, almeno il 50%, delle capacità cognitive e funzionali del paziente. L'ictus rappresenta una patologia ad elevata incidenza nella popolazione, che richiede tempi di gestione molto rapidi. Fondamentale la prevenzione. Maria Rosaria Valente, Ospedale Santa Maria della Misericordia, Udine. Prevenzione per quanto riguarda la patologia cerebrovascolare significa soprattutto, con una popolazione sempre più anziana, intervento sullo stile di vita. Quindi significa, prima ancora che i farmaci, una buona alimentazione, il mantenimento di un'attività fisica adeguata, il mantenimento di un buon sonno. Poi ovviamente anche i farmaci servono, ma devono essere supportati da uno stile di vita adeguato. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo ora al meteo. Cielo da nuvoloso a variabile su tutta la regione. Queste le temperature delle 11. A Trieste 23,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi. A Udine e Pordenone 21 gradi, a Gorizia 19,5 gradi. A Tarvisio 19,5 gradi, a Tolmezzo 18, a Forni di Sopra 15,5 gradi, a Sappada e Piancavallo 13 gradi. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 10 gradi, tornando sulla costa a Lignano e Grado 21 gradi con temperatura del mare di 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio variabilità con la possibilità di locali piogge e qualche temporale più probabili dal pomeriggio, previsione incerta. Domani cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata. Piogge in genere abbondanti, anche intense verso le Prealpi Giulie. Saranno possibili locali temporali forti sulla costa, in quota soffierà vento da sud moderato. Ora a Trieste per un convegno dell'OGS che fa il punto sulla biodiversità e su quanto sia colpita dalle pressioni antropiche. È corposo anche nella nostra regione l'impatto del cambiamento climatico. Le alterazioni sono evidenti per ciò che riguarda l'aumento delle temperature medie, il regime delle piogge, la maggiore intensità degli eventi atmosferici, le ondate di caldo. Anche sulla biodiversità tante le conseguenze, poche se non nulle le resilienze che alcune comunità naturali sviluppano rispetto alle pressioni antropiche. Ecco perché il focus scientifico dell'OGS, che ha riunito a Trieste un centinaio di ricercatori provenienti da tutto il mondo, è concentrato sulle metodologie più efficaci da applicare su tutti gli aspetti delle comunità animali e vegetali, d'acqua dolce e marini. L'occasione per fare il punto sugli impatti più evidenti emersi quest'estate. temperature elevate per periodi anche abbastanza prolungati di cui siamo abituati in questi ultimi anni. Non parliamo del granchio blu perché questa è la star dell'estate, però abbiamo visto una proliferazione ancora molto rilevante delle noci di mare. Sono comparse nell'ultimo periodo anche meduse, le cubomeduse che erano e sono frequenti in Adriatico, ma adesso arrivano grazie anche a causa dei cambiamenti climatici anche in questa parte più settentrionale. Sul fronte scioglimento dei ghiacciai, se sono pessime le notizie sul 2022, considerato l'anno dei record che potrebbe essere battuto nel 2023, sono invece confortanti quelle sul ghiacciaio orientale del Montasio che dal 2005 in controtendenza risulta stabilizzato. A dirlo, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica dell'Unione Europea di Geoscienze, The Cryosphere. Il servizio era di Elisabetta Zaccolo. L'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha potenziato l'ufficio Ambiente e Territorio, che oggi conta su due agronomi, due dipendenti dell'associazione e uno studio legale per aiutare a gestire le ricadute ambientali dell'attività sia per le piccole stalle che per quelle più strutturate. Tra i punti cruciali la convivenza con il vicinato e la certificazione di un impatto sostenibile per l'ambiente. In regione la densità di allevamenti è un sesto rispetto a quello della Lombardia, spiega Andrea Lugo, direttore dell'Associazione Allevatori Regionali, e la produzione di azoto in rapporto alla superficie, rapporto sovrinteso dalla direttiva nitrati, vede il Friuli Venezia Giulia in buona posizione. Tra le tematiche affrontate dall'Ufficio Ambiente c'è anzitutto l'assistenza alle aziende per le pratiche nitrati, la comunicazione di spandimento e il piano di utilizzo agronomica. L'obiettivo per l'associazione allevatori è rendere più trasparente l'attività verso i consumatori e diventare punto di riferimento per i soci per tutte le problematiche di tipo ambientale. E ora la storia di un quartiere di Udine che da discarica diventa un luogo verde, ricco di arte e piacevole da vivere. Ieri sera è stato inaugurato il Parco Midolini a San Gottardo. Il servizio. Quello che oggi è un bel parco cittadino, piacevole e ricco di arte, un tempo era noto come comprensorio IFIM, una discarica di rifiuti urbani non pericolosi e una cava per l'estrazione di materiale inerte. Siamo a San Gottardo, alla periferia ovest di Udine, 40 ettari di proprietà della SPA Midolini, nota per essere una delle maggiori società in Italia nei settori sollevamento, trasporti ed attività portuali. Ieri sera si è svolta l'inaugurazione del parco e la consegna del premio artistico Midolini, giunto alla quarta edizione. 9 gli artisti in gara e il collettivo Cheap Art Itaca, un gruppo di creativi della comunità 9 del Dipartimento di Salute Mentale di Udine. Presenti anche gli assessori regionali Mario Anzil e Sergio Emidio Bini, premiato Alfonso Firmani, autore dell'opera Antologia dei racconti traditi, menzione speciale per il maestro Roberto Milan e per la sua collezione di sculture denominata I Custodi. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E torna oggi e domani nella Casa dei Fornes di Forni di Sopra la Dolomiti Mountain School, una due giorni di appuntamenti tematici per riunire sotto lo stesso tetto esperti, addetti ai lavori e semplici appassionati dell'arco dolomitico. La settima edizione è dedicata al tema natura da recuperare, non più da forzare, tra sistemi idrici, vie di comunicazione e spazi da ritrovare, e i temi trattati saranno proprio quelli dell'importanza della risorsa acqua e degli elementi che influenzano il rapporto tra l'ambiente montano e i suoi frequentatori. Ce ne ha detto di più Giampaolo Carbonetto, giornalista e coordinatore della scuola. La Mountain School nasce come scuola di paesaggio e questa è la sua settima edizione. In tutte queste edizioni abbiamo cercato di analizzare quello che sta succedendo nella montagna, soprattutto friulana, ma non soltanto friulana, da svariati punti di vista, perché la convinzione nostra è che la crisi anche abitativa che ha la Carnia, la Val Canale, il Canale del Ferro e anche altre zone montane derivi da problemi che possono essere affrontati soltanto con una buona base culturale e interdisciplinare. Quali sono gli specialisti, i docenti, insomma, presenti quest'anno e quali sono i temi che affronteranno in particolare? Il tema principale di questa sessione autunnale è quello dell'acqua, nel suo rapporto con il terreno, perché sia la carenza sia l'eccesso d'acqua hanno riflessi piuttosto drammatici anche sul suolo. I docenti quindi sono soprattutto degli specialisti in questo settore, cominciando con il direttore del CAFC, che ci darà un quadro della situazione delle varie fonti. Il professor Alberto Bellin ci spiegherà, dal punto di vista della produzione di energia elettrica, quali strumenti si possono applicare per ovviare alla siccità e alla carenza di corso d'acqua. E poi incominceremo a parlare di frane con Chiara Calligaris, una geologa, e Giuseppe Muscio, anche geologo. La prima giornata si concluderà con un ricordo della strage del Vajont. Non sarà una commemorazione, ma una spiegazione di quello che è successo. E ora gli spettacoli con il teatro. Un omaggio a Italo Svevo sarà lo spettacolo di apertura della stagione del Rossetti di Trieste. Sarà Zeno Cosini a calcare per primo il palcoscenico della nuova stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che celebra così il centenario della pubblicazione del capolavoro di Italo Svevo. Una meravigliosa avventura per il direttore artistico Paolo Valerio, che ha firmato la regia e insieme a Monica Codena anche l'adattamento. Ci sarà molta letteratura, ci sarà molta narrazione e poi molta vita. Molta vita come il protagonista, vita zoppicante, vita incerta, una vita inaspettata per uno spettacolo inaspettato. Nel ruolo di protagonista Alessandro Haber, sul palco con Alberto Onofrietti e Francesco Migliaccio. Sto entrando in questo personaggio, un personaggio inaspettato, non pensavo mai, me l'hanno proposto. Io penso che sarà un bel viaggio, un viaggio che faremo con una bella compagnia, e non vedo l'ora di essere lì da voi e abbracciarvi tutti. In Sala Bartoli è stata presentata anche la programmazione completa, arricchita in estate con alcuni titoli internazionali, tra cui il musical Six e altri eventi e concerti. Dopo una stagione con 170.000 presenze e il record incassi, ha detto il presidente Francesco Grambassi, si riparte con un centinaio di spettacoli offerti ad un pubblico che sta rispondendo benissimo alla campagna abbonamenti. Quelli a turno fisso hanno già superato quelli della stagione passata e quelli dedicati alla drammaturgia contemporanea in Sala Bartoli hanno registrato un più 20%. Per 100 spettacoli, alcuni internazionali, alcuni di autori forse sconosciuti ma che diventeranno sicuramente famosi perché molto molto intensi e bravi. Certo, grandi attori molto famosi e giovani attori alle prime armi, quindi abbiamo un pubblico molto diverso per spettacoli molto diversi, quindi il filo conduttore è l'amore e la passione per il teatro. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. E inizierà questo pomeriggio alle 15.30 e durerà fino a domani nella sede della Facoltà di Lettere dell'Università di Trieste il convegno internazionale Rileggere Caterina Percotto oggi, nuova tappa del progetto Pierpaolo e Caterina, due intellettuali a confronto, da Caterina Percotto a Pierpaolo Pasolini e oltre, per una nuova mappa del Friuli letterario promosso dal comune di Manzano. All'incontro parteciperanno studiosi di vari atenei che indagheranno le nuove prospettive attraverso cui accostarsi oggi alla scrittrice friulana, ai suoi testi e alla sua eredità. A Udine la conferenza Essere donna durante il fascismo, la legislazione del ventennio che penalizzò il lavoro delle donne, alle 18 nell'ex caserma Osoppo. Con Roberta Nunin, docente di diritto del lavoro all'Università di Trieste e presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine. La conferenza è organizzata dall'AMPI. Per il ciclo di appuntamenti Grandi Incontri al Castello di Miramare, Lorenzo Danteferro svelerà i segreti delle piante nell'arte della profumeria, raccontando la sua esperienza di naso, alle 15.30 nella Sala del Trono del Castello. C'è Ghedaccio 30 anni è il titolo del libro scritto a quattro mani da Giampaolo Polesini e Renato D'Argenio per l'Orto della Cultura Casa Editrice. Presentazione alle 19 in Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone Udine in Piazza Venerio. Riprende dopo la pausa estiva la rassegna enoculturale di Libro in Vigna alle 18 sul Ronco di Gramogliano a Corno di Rosazzo, L'uomo che raccontava il basket di Sergio Taucher. A dialogare con l'autore Stefano Lusa, caporedattore di Radio Capodistria. E sempre alle 18 alla Libreria Friuli di Udine la presentazione del romanzo Un grappolo d'uva con l'autore Sergio Faleschini, modera Sara Rosso con interventi di Isabella De Monte. A 11 anni dalla prima edizione si parlerà ancora del libro di Roberto Kovacs La Domenica delle Scope alle 18.30 Villa De Brandis a San Giovanni al Natisone nell'ambito della rassegna Estate in Villa. Per romance d'autore, appuntamento con Matteo Bussola e il suo nuovo romanzo Un buon posto in cui fermarsi, al Centro Culturale di Piazza Garibaldi, con inizio alle 18. Incontro alle 17 alla Galleria Accademia Città di Udine di Via Anton Lazzaro Moro con Maria Pina Lamarca. Sono narrati i ricordi di un attrezzista friulano addetto agli allestimenti degli spettacoli lirici del Teatro La Fenice di Venezia. Ed era questo l'ultimo appuntamento per questa edizione del Giornale Radio. Radio Regionale, alla parte tecnica Bruno Montevecchi e Mauro Coloni. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo, l'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze alle 15. E da Daniele Lettige e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.